L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua in diretta come ogni sabato con l'Altra Europa, lo spazio che Radio 24 dedica alla narrazione europea, l'attualità, la politica, l'economia viene raccontata giorno per giorno dalla nostra emittente. Noi il sabato cerchiamo di dare anche altri contributi, altri punti di vista. Un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee, tante voci per un percorso comune. Le coordinate per trovarci anche sulle piazze virtuali, Euronet Plus R24, se volete incontrarci sia su Twitter che su Facebook, stessi social network, mi trovate anche al mio nome, Federico Taddia. Ogni settimana un viaggio, oggi partiamo da quello che per noi è una delle colonne, una delle spine dorsali della nostra Europa, l'Erasmus. À partir de 2014, il faudra vous habituer à ce nom, Erasmus+. Et oui, le projet Erasmus voit son budget presque doublé. Mais Erasmus, pour ceux qui participent, c'est quoi ? Faire une expérience dans une autre université qui fonctionne différemment. Profiter de l'expertise d'enseignants universitaires qui sont en poste dans d'autres universités. Great opportunity to gain the skills that I would need after university. Sono voci, sono testimonianze di questo spot che è stato lanciato perché mancano solo due mesi all'avvio del programma Erasmus Plus con un budget di 15 miliardi che aiuterà 4 milioni di giovani a studiare o effettuare una formazione all'estero nei prossimi 7 anni. Il programma è appena stato presentato e vi ricordo che Euronet Plus riunirà i precedenti meccanismi europei incentrati sull'educazione, la formazione, la gioventù e lo sport, quindi tanti degli argomenti che sfioriamo, che tocchiamo con l'altra Europa. Abbiamo parlato in questi anni tantissime volte di Erasmus, abbiamo raccontato storie, abbiamo sottolineato quelli che sono i punti a favore e anche quelli che sono le criticità, e oggi andiamo proprio a sottolineare anche l'altro aspetto dell'Erasmus, perché ci sono anche delle critiche legate a questo programma che personalmente considero fondamentale per il cammino europeo. La cosa che mi è piaciuta di questa critica è che l'autore è uno studente che ha fatto l'Erasmus e con ironia ha cercato così di evidenziare anche quelle che sono le ombre a volte di un'esperienza che ha un enorme potenziale ma rischia poi di limitarsi a una sorta di lunga vacanza. Diamo quindi il benvenuto a Leos von Mecklebeck, francese che ha appena pubblicato un libro intitolato Homo Erasmus. Ciao Leos. Ciao, buongiorno, ciao a tutta l'Italia. Buongiorno a te. Tu sei uno studente, vero, di cosa? Sì, io sono studente in storia e in italiano. Uh-huh. Hai fatto l'Erasmus in Italia? Ho fatto l'Erasmus 2 anni fa a Bologna, un anno a Bologna, sì. Ok. E come mai che hai scelto di scrivere questo libro che è una sorta di critica costruttiva all'Erasmus? Insomma, è una critica, non è un attacco a Erasmus perché cioè, è una cosa straordinaria Erasmus, però diciamo che mi sono accorto durante quest'anno che c'era un scarto tra la promozione di Erasmus, tutti i discorsi elogiativi nei confronti dell'Erasmus e diciamo la mia esperienza reale di cosa può essere diciamo, il peggio di Erasmus. Qual è il peggio di Erasmus? E diciamo che per la maggiorità dei studenti, secondo me, diventa un po' un anno di vacanze, un anno di festa, senza una vera volontà di scoprire il paese dove sei arrivato, insomma. Senza una vera... sì, un vero interesse verso la cultura, verso anche gli abitanti, gli altri, per il mio caso, gli italiani. Quello che tu sottolinei è che troppe volte gli studenti Erasmus frequentano solo altri studenti Erasmus, quindi di fatto è vero che è un tuffo in culture diverse, ma non è un'immersione nella cultura che ti ospita. Le colpe sono dell'università che magari non attiva anche altri percorsi, o secondo te è proprio una sorta di tendenza che c'è nel chi fa questa esperienza? Beh, diciamo che c'è la tendenza, secondo me, della nostra generazione. Poi la colpa può anche essere di tutte queste associazioni che infatti vogliono favorizzare l'integrazione degli Erasmus, però come stanno insieme, cioè, lasciano sempre gli Erasmus insieme, tutti insieme, dunque non aiutano a questi studenti a scoprire la città dove sono arrivati. Insomma, io ho incontrato studenti Erasmus che hanno passato tranquillamente un anno a Bologna senza incontrare i bolognesi, italiani, senza entrare per niente in contatto con la città, con la popolazione, con la storia della città, insomma, tutti i luoghi bolognesi che sono fantastici, perché lì, diciamo che io ho avuto la fortuna di mi sono staccato di tutto questo e volevo incontrare gli italiani e ci sono riusciti in pochi giorni. È stato un anno fantastico per me. Ti ha cambiato la vita l'Erasmus? Mi ha cambiato la vita, non lo so, sicuramente mi ha dato la voglia di tornare in Italia, perché dopo ho fatto un altro anno in Italia e poi ho avuto tanti amici adesso italiani, ma è stato un anno fantastico, però credo che è un peccato che la maggiorità dei studenti Erasmus non riescono a fare questo, a staccarsi di, diciamo, del gregge di studenti Erasmus stranieri. Su caffebebel.it c'è una tua bella intervista. Ad un certo punto, all'ultima domanda, ti chiedono di raccogliere, anche di tratteggiare la tua generazione, e dici: siamo risucchiati dalla noia. Ti riconosci in questa definizione? La maggiorità, io non mi sento risucchiato dalla noia, poi ho un po' questa sensazione che i giovani della mia età sì, sono un po' risucchiati dalla noia e che non, tutte queste feste Erasmus dove ci dobbiamo per forza divertire, secondo me nessuno si diverta veramente, cioè non si divertono per nulla, perché è una festa perenne che infatti è un po' triste. Diventa una cosa un po' triste. Io non sento un po' di noia nella mia generazione. Un consiglio che daresti a chi sta facendo le valigie per partire per l'Erasmus? Allora, un consiglio sarebbe prima di tutto di non stare con tutti gli Erasmus, di non stare con le associazioni e di non lasciarsi, insomma, risucchiare dagli Erasmus e di fare il forzo di incontrare, di andare verso gli autoctoni, gli italiani. Okay. Perché, sì, di fare questo sforzo, che è vero che è una cosa, cioè, è più comodo di stare con altri Erasmus, magari con quelli del suo paese, però, cioè, perde il senso del viaggio, insomma. Grazie davvero. Homo Erasmus, il titolo del libro pubblicato dalla casa editrice, ce lo vuoi ricordare, perché credo ci sia anche in Italia, Dasein, dico bene? Sì, edizione Dasein, poi stiamo facendo una traduzione in italiana, dunque okay. Se troviamo una casa editrice forse anche la versione italiana. Ok, grazie davvero, ciao, buon sabato. Ciao a tutti. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. L'Europa, l'Europa delle opportunità, è l'Europa dell'Erasmus, ma anche e soprattutto l'Europa dei fondi europei, un'importante risorsa che c'è, che troppe volte però questa risorsa non viene utilizzata, ci si perde nel momento della progettazione, ci si perde tra la burocrazia che è comunque necessario, l'importante è riuscire a destreggiarsi tra le tante regole. Vi vogliamo oggi raccontare un'esperienza virtuosa ed è quella promossa dalla regione Emilia-Romagna, che già si è distinta nell'ambito del programma operativo regionale dei fondi europei di sviluppo regionale e per il periodo, nel periodo 2007-2013 ha messo a disposizione 347 milioni di euro per avvicinare la regione agli importanti obiettivi di Lisbona e di Göteborg. Ora c'è un altro settennio per il periodo 2014 2020 e la regione Emilia-Romagna ha lanciato un forum di progettazione partecipata, si chiama Io Partecipo. Sul nostro sito radio24.it trovate tutti i link relativi ai singoli argomenti, che sono finanza per lo sviluppo, ricerca e innovazione, green economy, valorizzazione del territorio, startup. Insomma, la regione chiede ai cittadini: avete idee, avete proposte, parliamone, perché insieme possiamo fare una progettazione sicuramente migliore, soprattutto sicuramente con ampie ricadute. Per capire il perché di questa iniziativa abbiamo con noi Simonetta Salliera, vicepresidente della regione Emilia-Romagna e credo assessore alla trasparenza, se non erro. Buongiorno Salliera. Buongiorno, assessore. Grazie per questa occasione. Sì. Allora, è una bella sfida, perché veramente avete aperto questa piazza virtuale, questo forum interattivo, per chiedere ai cittadini, agli imprenditori, a tutti gli attori protagonisti, insomma, del territorio, di dare delle idee. Noi la riteniamo molto importante, molto molto. È dal 2009 che abbiamo un portale regionale dedicato alla partecipazione, che negli anni si è evoluto e cerca di occuparsi di tutte le situazioni innovative. Oggi il tema è la programmazione dei nuovi fondi strutturali europei nel settennio 2020, fino al 2020. E abbiamo la necessità, sui temi importantissimi come crescita e sviluppo, e soprattutto nella nostra tradizione della manifattura, la sua innovazione, la ricerca, di coinvolgere il più possibile tutti gli stakeholder della ricerca, dell'innovazione, del mondo produttivo, anche con mezzi come la rete. Certo. Perché la rete comunque vuol dire una connessione diretta con i cittadini. Per fare, costruiamo insieme il programma 2014-2020, è il nome del portale per questo percorso partecipativo. Partecipiamo, ascoltiamo, costruiamo insieme, questo è lo slogan, è l'invito, sì, anche. Certo. E i cittadini come rispondono? Come stanno rispondendo? Molto bene. Sì. Stanno rispondendo con una rete e una piazza e diverse piazze di discussione. Noi l'intera consultazione termina il 31 ottobre, ma prevedendo poi degli step anche successivi. Mm-hmm. Quindi una prima valutazione entro il 31 ottobre. Ok, quindi una prima selezione anche di quelli che saranno sì, poi sì, i percorsi da certo approfondire. Ricordiamo che ci sono i Centro Europe Direct anche coinvolti, per chi volesse informazioni, perché è bene anche informarsi, vero, prima di proporre idee. Sul portale vedo che c'è la possibilità di trovare tutti i documenti proprio per fare proposte che siano mirate, contestualizzate. Guardi, una brevissima opinione, certo, la rete è utilissima, ma rischia di essere molto superficiale e di non saper comprendere a fondo i problemi, le opportunità e le contraddizioni. Noi vorremmo, con questi progetti di partecipazione, dare uno strumento veramente utile di approfondimento, di conoscenza, di apporto, e noi stessi come regione metterci a disposizione, cosa che stiamo facendo, sia per ricevere, ma anche per dare e per creare effettivamente un'idea di partecipazione collettiva informata, non superficiale. Perfetto, grazie davvero. Ricordiamo radio24.it, dal nostro sito trovate tutti i link relativi a POR per fare, così li abbiamo anche selezionati per argomento, così è più facile anche la navigazione all'interno del vostro portale. Grazie davvero Simonetta Salliera. Ringrazio della vostra informazione, ci fa piacere. Ci sentiremo presto, buon lavoro, grazie. Arrivederci. Europost-it. Corso sugli appalti europei. Volete saperne di più sugli appalti europei? Volete conoscere meglio la nuova direttiva e sapere come partecipare ai bandi, magari con esercitazioni pratiche? L'Ufficio Europa della Camera di Commercio Belgo-Italiana organizza un corso di specializzazione proprio in questo senso. I corsi si tengono a Bruxelles dal 25 al 27 novembre e sono indirizzati alle piccole e medie imprese che sono interessate a partecipare ai bandi europei e vogliono capire come farlo. Alla fine del corso sono offerti 3 mesi di consulenza gratuita dalla Camera di Commercio. Per saperne di più ed iscriversi c'è il portale della formazione della Camera di Commercio belgo-italiana, masterdesk.eu. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh. E se passasse davvero dalla rete un nuovo pezzettino dell'Europa che verrà? Abbiamo ascoltato l'esperienza dell'Emilia Romagna, adesso un'altra esperienza importante che ha internet come cuore, come cassa di risonanza, però alla fine quello che cerca di muovere sono le teste, sono i neuroni. Abbiamo con noi Giuseppe Porcaro, segretario generale dell'European Youth Forum. Ciao Giuseppe, benvenuto all'Altra Europa. Sì, salve, buongiorno. Allora, Youth Forum, fai la tua promessa ai giovani, è l'iniziativa che avete lanciato, meglio che ha lanciato l'organizzazione giovanile composta dal Forum dei 28 paesi membri dell'Unione Europea. Chiedete ai candidati delle prossime elezioni del maggio 2014 di sottoscrivere una lista di promesse per i giovani. Fate firmare di fatto una sorta di manifesto per le nuove generazioni? Sì, infatti, esattamente. Chiediamo ai candidati per le elezioni europee del 2014 di firmare una lista di promesse. Abbiamo 11 promesse, chiediamo almeno 6 promesse di essere firmate dal candidato per poter essere incluso nella lista dei supporters della campagna. Mm-hmm. E sono delle promesse che riguardano le nuove generazioni, le giovani generazioni, su Love, Youth and Future, come dice lo slogan della campagna, cioè giovani, amare i giovani per il futuro dell'Europa. Quali sono queste 11 promesse in concreto? Ce le puoi elencare? Sì, molto brevemente. Sì, certo. Allora, sono raggruppate in questi tre grandi argomenti, cioè quindi amare le giovani generazioni significa proteggerli e quindi avere più diritti per i giovani, in particolare per esempio sottoscrivere la carta per degli stage di qualità. Sì. Che è uno dei delle battaglie che stiamo avendo qui a livello europeo ma anche a livello nazionale da un po' di tempo. Per quanto riguarda la parte proprio gioventù, chiediamo un maggior coinvolgimento della società civile e delle associazioni giovanili nella democrazia europea. Mm-hmm. E per esempio una forte garanzia per i giovani per quanto riguarda il lavoro giovanile. Chiedete anche l'abbassamento dell'età, vero? Per partecipare alle elezioni, ai 16 esatto, anni. Esatto, per quanto riguarda il futuro, sul blocco del futuro abbiamo più risorse, più investimenti per i giovani e in questo caso anche abbassare l'età a 16 anni, che è qualcosa di abbastanza controverso come richiesta, anche se in Austria per esempio funziona già da un po' di anni e funziona abbastanza bene. E Giuseppe, ma i candidati che accetteranno di firmare questa carta in cambio cosa avranno? Allora, i candidati potranno come dicevo prima essere listati sul sito come supporters, però perfetto, potranno anche nella loro campagna elettorale menzionare il fatto che sono dei supporters della campagna del Forum Europeo della Gioventù e potranno mettere il badge di Love Youth Future sul loro sito e su qualsiasi iniziativa elettorale. Tutto questo in maniera molto bipartisan, in maniera allargata a qualsiasi forza politica, qualsiasi candidato che voglia sottoscrivere queste promesse. Ricordiamo che l'European Youth Forum è la piattaforma delle associazioni giovanili e dei consigli nazionali della gioventù, vi occupate di difendere le istanze europee, avete sede a Bruxelles ma siete operativi in tutta Europa. Ricordaci ancora il sito di riferimento per questa campagna? Sì, loveyouthfuture.eu. Perfetto, ci ritroveremo sicuramente l'altra Europa, perché andremo, viaggeremo insieme verso queste elezioni del maggio 2014, importantissime, e magari andremo a spulciare quelli che sono i candidati che hanno deciso di avere un occhio di riguardo anche verso i giovani. Grazie davvero Giuseppe, ciao e buon lavoro. Perfetto, ciao. Buona giornata, arrivederci. L'altra Europa. Dentro me ho sentito un vuoto che mi chiamava dentro di sé. Vieni ora a vedere la verità. C'è un ponte sull'immensità. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa. Ci trovate sul sito radio24.it oppure Euronet Plus R24 o Federico Taddia sui nostri account, sia su Facebook che su Twitter, se volete interagire con noi attraverso i social network. Che la forza libera sempre sola. Si intitola Crisalide la canzone che state ascoltando ed è il pezzo che la sanmarinese Valentina Moneta porterà all'Eurovision Song Contest del 2014. Perché sì, San Marino può partecipare all'Eurovision Song Contest, ma San Marino non è all'interno dell'Unione Europea, ma proprio domani, domenica 20 ottobre, ci sarà un referendum per sondare un po' il polso della situazione, per chiedere ai cittadini: ma vi andrebbe di entrare nell'Unione Europea? È una settimana in cui si parla molto di allargamento, poi capiremo il perché, ma vogliamo capire quello che accadrà domani, perché San Marino vuole entrare nell'Unione Europea, e ne parliamo con Antonio Valentini del comitato promotore del referendum. Buongiorno Valentini. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Allora, avete promosso questo referendum, ricordiamo San Marino ha 33.000 abitanti, e a questi 33.000 abitanti domani chiederete: ma vi andrebbe? Ci proviamo ad entrare nell'Unione Europea? È un po' questo l'obiettivo della giornata di domani? Ma direi l'obiettivo della giornata di domani è quello di chiedere ai cittadini sanmarinesi di dire sì ad un processo di avvicinamento, di negoziazione, di trattativa con Bruxelles, attraverso il quale San Marino, e solo attraverso il quale San Marino sarà in grado di sapere, di conoscere se sarà in grado di sopportare i costi dell'adesione all'Unione Europea. Quindi non è un sì all'adesione domani è un sì all'esplorazione, e quindi noi siamo tutti curiosi di sapere se nelle eventuali deroghe che si potrebbero negoziare in sede di trattativa, San Marino sarà in grado di reggere l'impatto con lo status di Stato membro. Ecco. Mm-hmm. Quali sono i pro? Perché volete entrare nell'Unione Europea? Cosa succede? Cos'è cambiato? Che avete questo desiderio di appartenenza nuovo? Ma intanto, come dire, noi nella forma siamo stato terzo, nella sostanza ci sentiamo cittadini europei, perché viviamo tutti i problemi, tutte le opportunità del continente europeo. Per un piccolo Stato, per un microstato come San Marino, che ha nel passato ancorato i propri asset in termini di leve competitive sulla riservatezza, sulla riservatezza bancaria e societaria, come peraltro è accaduto per gran parte dei microstati, dei piccoli stati, oggi è cambiato radicalmente il mondo, in quanto dopo il G20 londinese, dove si è sancito di fatto uno stop abbastanza deciso alla riservatezza bancaria e societaria, San Marino ha imboccato anche con un po' di ritardo, oserei dire, la via della trasparenza. Oggi è completamente compliance con tutti i principi internazionali sull'antiriciclaggio, sull'autoriciclaggio. Noi abbiamo delle normative in questo campo, direi, a livelli migliori in Europa. Però noi riteniamo che una economia trasparente, senza essere integrata con l'esterno, con l'Italia, ma soprattutto con l'Europa, è destinata ad avere seri problemi di sopravvivenza. Una bandiera che porta avanti il fronte del no è quello del non si può accettare la libera circolazione delle persone. 33.000 abitanti in un contesto di 500 milioni di persone rischierebbe appunto di mettere in discussione il sistema sociale del paese, della nazione. Voi cosa rispondete a chi, a chi porta avanti queste paure di fatto? Ma tra l'altro noi riteniamo che questa sarebbe una delle deroghe da negoziare rispetto alle quattro libertà fondamentali, quindi per certi versi questa consapevolezza ce l'ha anche il comitato promotore per il sì. Cioè, noi ci rendiamo conto che 60 km quadrati e 33.000 persone debbono necessariamente negoziare delle deroghe a uno di dei quattro pilastri di libera circolazione delle persone e forse anche dei capitali. Tuttavia riteniamo che ci possano essere dei margini, degli spazi per ottenere delle deroghe. Altri stati le hanno ottenute, Malta, mi riferisco a Liechtenstein per quanto concerne lo spazio economico europeo. Quindi, come dire, è evidente che è l'avvio di un negoziato. Poi se non ci fosse la possibilità di ottenere queste deroghe, noi siamo così assoluti per l'adesione, siamo anche aperti a valutare soluzioni intermedie, ma e a Bruxelles l'obiettivo nostro è partire dall'obiettivo massimo. A Bruxelles vi guardano con un occhio così curioso, nel senso avete già dei contatti, sostengono questo referendum, avete avuto qualche feedback? Ma diciamo che noi abbiamo fatto alcune verifiche e non esistono elementi ostili o ostativi a che San Marino possa avviare questa richiesta di adesione, tant'è che poi l'articolo 49 del Trattato di Lisbona, oggi in vigore, prevede in maniera molto esplicita che tutti gli stati dentro la grande area europea possano avanzare la richiesta di adesione. E non è la dimensione territoriale che può rappresentare un ostacolo. Certo, San Marino sarebbe il primo vero piccolo stato, è vero che c'è Malta che è già stato membro, ma noi siamo 10 volte più piccoli di Malta, quindi si aprirebbe un tema nuovo forse rispetto a quello che è lo status quo attuale, e quindi evidentemente l'Unione Europea dovrebbe misurarsi con una dimensione diversa di un negoziato. Ecco. Perfetto, in bocca al lupo, buona giornata per domani per il referendum, che comunque è sempre un'occasione di partecipazione e di democrazia. Grazie, buona giornata. Grazie per averci dato questo spazio. Ci piace l'Europa, che sia grande e che sia piccola. Buona giornata. E questa Europa che si allarga è una delle priorità che la Commissione europea proprio in questi giorni ha sottolineato, facendo un po' il punto su quello che sta accadendo. Il Montenegro, paese candidato, la Serbia, paese candidata, l'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, la Turchia, l'Islanda, per ciascun Stato hanno fatto un po' così il quadro, cosa manca, come ci si sta muovendo, quali sono i punti critici. E poi tra le varie nazioni coinvolte anche un passo importante, ed è l'assegnazione dello status di paese candidato all'Albania. Italy. I camaret no fitin du mi e diet ai tendri tiflete e calendarit. Una canzone rurale albanese dal titolo ci ha aperto le porte, l'Europa, e con questa musica diamo il benvenuto a Mariola Rukaj, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso dall'Albania. Ciao Mariola, ben ritrovata. Buongiorno. Buongiorno a te, ciao. E allora, è arrivato questo status di paese candidato all'ingresso dell'Unione Europea, è un primo passo verso un percorso inatteso, un percorso impensabile fino a qualche anno fa. Cos'è successo? Come sta cambiando? Com'è cambiata l'Albania in questi mesi? Sì, ecco, l'Albania è cambiata praticamente con quello che è avvenuto lo scorso 16 ottobre, quindi con la raccomandazione da parte della Commissione europea appunto di assegnare lo status di paese candidato all'Albania. Ne abbiamo appunto una conferma del fatto che l'Albania non è più il paese di una volta, insomma, con grossi problemi per quanto riguarda la democrazia. E come ha anche sottolineato il commissario per l'allargamento in ambito europeo Stefan Füle, il quale appunto ha proposto, insomma, esplicitamente la raccomandazione, si tratta principalmente di un passo in avanti che l'Albania ha appunto compiuto nelle ultime elezioni politiche dello scorso giugno, quindi praticamente le ultime che hanno mandato a casa Berisha e che hanno appunto dato il potere a Edi Rama, che è stato uno shock positivo per gli albanesi, che ha scaturito, insomma, molto ottimismo e appunto stupore, perché nessuno si aspettava un processo elettorale così privo di incidenti, con pochissimi, insomma, incidenti e irregolarità, e appunto che ha comportato un ricambio dell'elite politica, insomma, Berisha era inossidabile e si era arrivati a un certo punto a un punto morto in cui non si vedeva più una via d'uscita, insomma, da questo autoritarismo che ricorda un po' i Balcani degli anni 90, quindi l'Albania era praticamente bloccata negli anni 90. Certo. E dopodiché adesso non più, quindi. L'altra Europa. Era stata respinta per tre volte la richiesta dell'Albania di poter avviare i negoziati per un possibile ingresso all'interno dell'Unione Europea. Invece questo status di paese candidato è finalmente arrivato, grazie anche alla nuova stabilità politica che sembra abbia finalmente conquistato il paese albanese. Con noi Mariola Rukaj di Osservatorio Balcani e Caucaso. Mariola, la Commissione Europea adesso cosa ha chiesto? Quali sono i punti principali del percorso che l'Albania deve intraprendere? Sì, esatto, è solo l'inizio, e infatti anche Edi Rama ha evitato appunto di mostrarsi euforico e di festeggiare come avrebbe fatto probabilmente Berisha, no? Durante il suo governo. E appunto perché vi sono dei traguardi che sono molto importanti e molto difficili, che chiederanno sicuramente un enorme impegno, e sono anche un po' quello che è il tallone d'Achille del paese da quasi 20 anni. Quindi si dovrebbe intervenire nell'amministrazione pubblica, nella depoliticizzazione dell'amministrazione pubblica e in una maggiore tutela degli impiegati, quindi vi saranno da fare appunto enormi riforme in questo senso. Vi sarà è richiesta l'indipendenza del giudiziario, che è anche appunto una cosa estremamente importante, un grande problema dell'Albania negli ultimi anni. Molti passi avanti sono stati comunque fatti, però non hanno in realtà comportato dei risultati concreti, come ad esempio è stata tolta l'immunità a molti giudici di alto rango, però questo non ha comportato al rilevamento di nessun caso concreto, insomma, di corruzione o di problematiche, insomma, concrete. Inoltre la lotta al crimine organizzato e alla corruzione, quindi parole grosse e traguardi appunto molto alti. Molto sarà da fare, come un'altra condizione, nell'ambito dei diritti umani per quanto riguarda le minoranze insomma di tutti i tipi, quelle sessuali, ma soprattutto sui Rom, che si sono visti sempre più in difficoltà negli ultimi anni. Ci sono stati vari episodi, ad esempio, di problemi con gli alloggi dei Rom, di discriminazione, comunque certo, di forte discriminazione. Belle sfide, insomma, credo siano belli anni, perché ricchi di sfide, ricchi di opportunità quelli che aspettano il popolo albanese, al di là dell'ingresso dell'Unione Europea, che è comunque un obiettivo fondamentale, però è veramente un momento di svolta, e speriamo di svolta positiva. Grazie davvero a Mariola Rucai, vi ricordo che i suoi pezzi, ma anche tutti gli altri approfondimenti riguardanti le questioni balcaniche, potete leggere sul sito e trovarle sul sito balcanicaucaso.org. Ciao Mariola, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno. Sì, lo ammetto, siamo un po' didascalici, no? Danubio blu, per introdurre nei pochi minuti che ci rimangono una bella mostra che è appena stata inaugurata a Roma, una mostra fotografica di Marco Bulgarelli, si intitola Danubios ed è un viaggio fotografico alla ricerca dell'identità europea dopo l'allargamento verso i paesi dell'Europa. È stata inaugurata il 17 ottobre e rimarrà aperta fino all'8 dicembre presso il Museo di Roma in Trastevere. Con noi l'autore Marco Bulgarelli. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, hai fatto un lungo viaggio, hai seguito il Danubio nei suoi 2778 chilometri, armato pacificamente di macchina fotografica. E che Europa hai raccontato? Ho fatto 7 viaggi in 2 anni e ho cercato le differenze, le similitudini dei paesi lungo il Danubio. E, paradossalmente, il Danubio unisce in un certo senso tutta l'Europa, perché lungo le sponde del Danubio non ho trovato tante differenze, ma contemporaneamente, come ben sappiamo, il Danubio è l'unico paese, è l'unico fiume al mondo che attraversa 10 stati e attraversa tante frontiere, e queste le varie culture, le varie lingue che si parlano lungo il fiume, chiaramente, come la storia ci insegna, segnano delle differenze. Certo, Marco, ma bastano 47 immagini, 47 fotografie per raccontare l'identità europea? Potrebbero anche bastare. Io ho fatto una selezione veramente accurata, in modo che potessi trasmettere veramente l'anima di ogni luogo e anche l'anima dei protagonisti, della gente, dei popoli di questi paesi. E alla fine ne è uscito un libro e una mostra più poetica, più personale, una visione più personale. Certo, è il tuo occhio, no? Come tu hai visto l'Europa. E prima di salutarci, Marco, lasciaci con una fotografia. Non ti chiedo la tua preferita, perché immagino non ci sia, però una fotografia che secondo te racconta bene, tratteggia bene il cuore del tuo percorso, il cuore della tua mostra, il cuore di Danubios. Guarda, una fotografia che potrebbe racchiudere anche tutta la questione dell'identità europea dopo l'allargamento ad est. Una fotografia realizzata a Mocs, nel sud dell'Ungheria, durante un festival. Un personaggio che si riferisce alla rivoluzione storica, che sta in una barca sul fiume con una pelle di montone, sì, e una maschera di legno, e questa maschera gli copre il viso e non si riesce a capire bene che cos'è il volto, la fisionomia della persona, però simboleggia proprio l'identità in trasformazione, proprio perché poi ognuno ci vuole leggere quello che vuole. Ma Marco, ci piace, facciamo nostra questa tua immagine. Un grazie a Margherita Ina, che come ha scritto la puntata, Isotta Scenna oggi in assistenza, Peter Bescapè alla parte tecnica, radio24.it, oppure fatevi vivi sui social network. Il mio nome è Federico Taddia, ciao e buon sabato. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.